Storie italiane. Cappuccetto d'oro. C'era una volta una bambina di nome Bridget in una piccola città vicino al bosco di Rosebery. Era conosciuta da tutti come Cappuccetto d'oro perché indossava sempre un bellissimo mantello dorato. Era un'anima molto gentile e dolce. Un giorno la mamma di Cappuccetto d'oro preparò una splendida torta di fragole. Mamma, la torta sembra deliziosa. Possiamo portarla alla nonna? Oh, è una bella idea, tesoro. Tagliamola a metà, così puoi portargliela. Sì, mamma, sì, sì! La mamma tagliò e confezionò amorevolmente il delizioso pezzo di torta in un bellissimo cestino rosa. Ecco qua, Bridget. Stai attenta. Ho preparato un panino alla marmellata da mangiare lungo la strada. E torna prima che il sole tramonti. I lupi escono a quell'ora. Ok, mamma. Cappuccetto d'oro salutò sua madre e se ne andò. Nel cuore del bosco di Rosebery viveva una famiglia di lupi. Uscivano sempre per spaventare i bambini piccoli e per rubare loro il cibo. Tuttavia, Ergo, il più giovane della famiglia, non riusciva mai a portare del cibo a casa perché era molto, molto gentile e dolce. Suo fratello lo prendeva sempre in giro. Ehi, Ergo, torni di nuovo a casa senza cena? Mm? Porterò sicuramente del cibo delizioso per cena. Anzi, porterò una deliziosa torta. Torta? Non riesci nemmeno a portare mezza fetta di pane. Spero che tu abbia la tua torta nei tuoi sogni. Aspetta e vedrai. Posso essere cattivo, posso essere un lupo davvero cattivo, ok? Bridget stava camminando allegramente nel bosco. Guardava gli uccelli che volavano, giocava con gli scoiattoli e raccoglieva bellissimi fiori sulla strada. Cominciò a canticchiare mentre camminava e Ergo la sentì mentre passeggiava per trovare la sua preda. Oh, qualcuno sta arrivando! Devo nascondermi molto in fretta. Prenderò del cibo delizioso! Ergo si nascose rapidamente dietro un albero e attese che Cappuccetto d'oro passasse. La terrorizzerò fino alle ossa! Ergo ispirò lentamente e si preparò. E mentre lei si avvicinava a lui, balzò fuori. Cappuccetto d'oro ne fu sorpresa. Oh, ciao cucciolo! Ti sei perso? Ergo rimase stupito dal fatto che Cappuccetto d'oro non si fosse spaventata. Io sono cattivo! Oh, devi avere fame! Ho del cibo per te! Bridget tirò fuori il panino alla marmellata che sua mamma le aveva preparato e ne prese un pezzo. Ecco qua, piccolo! Ah! Ma devi prima sederti! Siediti! Cosa? Perché? No, siediti! Altrimenti non ti darò questo! Ok! Quale zampa? Dai! Bene! Bravo, cucciolo! Ecco il tuo premio! Ergo aveva avuto il panino alla marmellata più gustoso che mai e ora eccolo lì a farsi accarezzare, cosa che adorava assolutamente. Si rannicchiò immediatamente e leccò Bridget. Smettila ora, andiamo! Bridget ed Ergo continuarono a camminare nel bosco. Bridget raccolse alcune bacche e ne diede anche a Ergo. Erano già diventati buoni amici. Ergo era curioso di sapere cosa ci fosse nel cestino. Tentò di scoprirlo mentre camminavano. Ah, è un pezzo della deliziosa torta di fragole preparata dalla mia mamma. Le ho chiesto se potevo portarla da mia nonna e lei ha detto di sì. E mentre stavo andando, ti ho incontrato. Ergo era davvero felicissimo. Era esattamente ciò che aveva promesso a suo fratello. Temo di non potertela dare. È abbastanza solo per mia nonna. Ma se ne rimane un po', possiamo mangiarla assieme. E te la darò sicuramente se ti comporterai bene. Cappuccetto d'oro gli diede una pacca sulla testa e i due continuarono a camminare. Proprio in quel momento, Ergo iniziò a sentire le parole di suo fratello nella sua testa. Ehi, Ergo, torni di nuovo a casa senza cena? Spero che tu abbia la tua torta nei tuoi sogni. Che cosa sto facendo? Dovrei essere un lupo cattivo, non il cucciolo di qualcuno. Non dovrei piacere a questa bambina. Devo essere feroce. Ergo continuò a lamentarsi, ma Cappuccetto d'Oro non capiva. Lui saltò e ululò, cosa che la lasciò perplessa. Cosa stai facendo? Non potrò darti la torta se salti così tanto. Devi comportarti da bravo cucciolo. Ergo si calmò, ma era ancora arrabbiato con se stesso. Aveva promesso a suo fratello che gli avrebbe portato una torta per cena e questa era la sua occasione. Non posso essere così. Devo fare qualcosa. Non sono un cane, sono un lupo. Un lupo! Ah, cucciolino, sei così carino. Carino? Io? Oh, grazie. Mi hai fatto arrossire. Aspetta un minuto. Cosa sto facendo? Concentrati, Ergo. Concentrati. E poi Ergo corse attorno a Cappuccetto d'Oro e strappò rapidamente il cestino dalle sue mani. Wow! Cucciolo, aspetta, aspettami! Bridget lo inseguì, ma Ergo saltò attraverso i folti cespugli e oltre le ampie radici. Ridammi il mio cestino! Bridget non riuscì a tenere il passo della velocità del lupo e inciampò sulle radici. La povera Bridget si sbucciò un ginocchio e non riuscì ad alzarsi. Era ferita e indifesa e cominciò a piangere. Le grida di Bridget erano così forti che Ergo riuscì a sentirla. Corri, Ergo. Questa è la tua occasione. Puoi dimostrare a tuo fratello che ha torto. Deve essere ferita. Forse dovrei controllare. Ma no, devo portare questa torta a mio fratello. Bene, bene. Non penso di poter essere cattivo. Dovrei tornare indietro. Sono davvero preoccupato. Ergo tornò di corsa da Bridget. Era seduta a terra e piangeva forte. Ergo vide la sua gamba ferita e si sentì estremamente in colpa. Mise il cestino accanto a lei e le si sedette vicino. Era così arrabbiato che non riusciva a trattenere le lacrime. Anche lui pianse. Sono un lupo cattivo. Ho ferito la piccola Cappuccetto d'Oro. Era così gentile con me. Vedendo Ergo piangere, Bridget lo abbracciò immediatamente. Oh, cucciolino, stai piangendo per me? Non ti preoccupare, sono una ragazza forte. Va bene, so che stavi solo giocando con me. Sei così gentile. Ergo si sentì in colpa per le sue azioni e leccò Cappuccetto d'Oro. Mi fai il solletico! Fermati! Bridget ed Ergo camminarono di nuovo insieme e presto raggiunsero la casa della nonna. Oh, ciao cara Bridget, ciao! Hai portato un lupo a casa! No, nonna, ti ho portato la torta e questo cucciolo è il mio nuovo amico! La nonna rimase scioccata nel vedere sua nipote che camminava tranquillamente in casa con un lupo. Vieni qui, sediti con me, cucciolo! Si sedettero al tavolo da pranzo, ma la nonna era terrorizzata a morte dal lupo. La nonna tagliò una fetta di torta, una per se stessa, una per Cappuccetto d'Oro e una per il lupo. Buonissima, buonissima! La nonna, Cappuccetto d'Oro ed Ergo iniziarono a mangiare. Non hai paura del lupo? Del cucciolo? No! Ha delle braccia così pelose, perfette per abbracciarmi. Ha un naso così grosso, Perfetto per annusare le basche nei boschi. E ho denti così grandi! Perfetti per mangiarti! Mangiarmi? Oh, no, nonna! Mangia solo panini alla marmellata e adora la torta! È un dolce ariano! Che cosa? È un dolce ariano! Mangia solo dolci! Dove l'hai imparato? Leggo molto, nonna! Bridget continua a mangiare, e così anche il suo piccolo lupo Ergo, lasciando la nonna completamente sconcertata. Dopo un po' di tempo, decisero di andarsene. Ciao, Bridget! Ciao, lupo! Ciao, nonna! Di ciao, cucciolo! Adesso andiamo, prima del tramonto! La mamma mi ha detto che i lupi escono di notte. Ergo pensò a quanto bella fosse stata la sua giornata con Cappuccetto d'Oro. Ma allo stesso tempo era anche triste, perché non aveva preso un pezzo di torta da mostrare a suo fratello. Ok, cucciolo, devo andare a casa ora. Scusa, non posso portarti con me. A mia mamma non piacciono gli animali. Ma ci rivedremo. Assolutamente. Oh, aspetta! E dal cestino, Bridget tirò fuori un enorme pezzo di torta di fragole. Ecco qua, proprio come avevo promesso. Sei stato un bravo cucciolo, quindi ho conservato un po' di torta per te. Mangiala per cena. So che la adori. Cappuccetto d'Oro ed Ergo si abbracciarono. Abbi cura di te, piccolo cucciolo. Ciao! Ergo e Bridget si separarono per tornare a casa. Cappuccetto d'Oro tornò a casa e raccontò a sua madre della sua avventura mentre sua madre curava la sua ferita. Sono abbastanza certa che non ci siano cuccioli nei boschi. Ma mamma! Era un cucciolo! Non mi credi! Ergo tornò a casa e sorprese suo fratello con un pezzo di torta. Com'è possibile questo? Ho solo mantenuto la mia parola. Vai avanti, io ne ho mangiata tantissima. Ergo era felice di essere diventato amico di Cappuccetto d'Oro perché aveva imparato che non doveva cercare di essere qualcun altro. Continuò ad essere gentile e generoso con tutti i passanti nella foresta e venne sempre ricompensato con cibo delizioso.